Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nessun razionamento per l'irrigazione dei campi quest'anno dopo la difficile situazione del 2022. Le piogge degli ultimi due mesi hanno rialzato i livelli di falde e bacini idrici. Arrestato a Udine un domenicano per aver aggredito con una bottiglia di vetro una donna e suo figlio in un autobus dove, nonostante il divieto, stava mangiando un panino. Poi ha messo le mani addosso agli agenti. Falso allarme e bomba ieri sera a Udine al Parco Bruno, evacuate molte famiglie perché era in corso una festa di inizio estate. Tutto rientrato dopo i controlli degli artificieri. Stretta sulla musica nelle ore notturne a Trieste, abbiamo sentito il parere degli esercenti che dicono serve un'area dedicata ai giovani. Continua a far discutere la riqualificazione dell'ex fiera di Pordenone. Oggi il sindaco Alessandro Ciriani ha spiegato le sue ragioni ed accoglierlo diversi manifestanti contrari al progetto e al taglio degli alberi. Riapre oggi al pubblico dopo oltre due anni il castello di Gorizia. Sarà gratuito fino al 9 luglio, poi si pagherà 3 euro. È uno dei concerti più attesi e partecipati dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Ultimo canterà questa sera a Lignano davanti a 25.000 persone. Cancelli già aperti dal pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti all'edizione meridiana del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In studio Antonio Di Bartolomeo che vi parla e Livia Liberatore. Le piogge degli ultimi due mesi dunque hanno cambiato una situazione di siccità che andava avanti sostanzialmente da un anno e mezzo. I bacini idroelettrici si sono riempiti di nuovo, il livello delle falde è risalito. Una cosa è certa, la situazione dell'acqua in Friuli è migliore rispetto all'anno scorso. Le piogge di marzo e maggio hanno ritardato l'irrigazione, sollevato di poco i livelli delle falde e riempito gli invasi dove ci sono. Come precisa Walter Colussi, presidente del consorzio di bonifica Cellina Meduna, nell'alta montagna gli invasi hanno raggiunto una quota sufficiente per una stagione irrigua normale. Ci sono almeno 80 giorni di autonomia e non si prevede nessun razionamento dell'acqua. Sulle falde qualche problema c'è, nonostante il recupero delle ultime settimane. Rispetto alla normalità, spiega, c'è ancora un 30% in meno. Sul versante della provincia di Udine le cose vanno meno bene. Certo, le irrigazioni sono cominciate da una decina di giorni, fa sapere Armando Di Nardo del consorzio di bonifica Pianura Friulana, mentre l'anno scorso si era partiti prima. Il livello delle falde è più alto, spiega, ma non corrisponde ancora alla normalità, cioè alla media degli ultimi 20 anni. Come spiega la presidente del consorzio, Rosanna Clocchiatti, si è già reso necessario chiedere ad A2A un'integrazione di acqua dai suoi bacini usati per la produzione di energia idroelettrica e si teme che l'operazione si ripeterà nel corso dell'estate. Sul versante dell'acqua potabile, invece, parte oggi l'integrazione tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana, che durerà 10 anni, un'operazione che supera la frammentazione del sistema idrico dell'area e andrà a interessare 134 comuni e 2 comunità montane. Il tutto, hanno dichiarato nei giorni scorsi, nell'interesse reciproco e degli utenti finali. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo è stato arrestato per aver scatenato una rissa a bordo di una corriera all'autostazione di Udine, una corriera diretta a Flambro. Il fatto è avvenuto mercoledì sera, ma la questura l'ha resa nota solo stamattina. Tutto è cominciato quando il conducente della vettura ha fatto presente all'uomo, un cittadino dominicano non residente a Udine, il divieto di consumare cibo in vettura. L'uomo stava mangiando un panino e ha ottenuto in risposta minacce e insulti. L'uomo ha poi aggredito al volto una passeggera del pullman e ha avuto una colluttazione con il figlio della donna intervenuto per difenderla. Il giovane, un ragazzo di origine ucraina, è rimasto ferito alla testa, al torace, colpito da una bottiglia di vetro. L'uomo ha opposto resistenza anche agli agenti della polizia intervenuti per calmarlo, resistenza continuata poi anche negli uffici della questura di Udine. I reati contestati sono lesioni personali aggravate dall'uso di arma e resistenza pubblico ufficiale. Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare di divieto di dimora e accesso al comune di Udine. Il Parco Brun di Udine è stato evacuato ieri sera intorno alle 20:30 a seguito di un allarme bomba rivelatosi poi falso. Nel parco era in corso una festa di inizio estate per i bambini che insieme ai genitori e a tutti i partecipanti sono stati accompagnati fuori dall'area verde dalla polizia. Le forze dell'ordine, con l'arrivo anche degli artificieri da Trieste, hanno perlustrato la zona per verificare la fondatezza della segnalazione anonima e il parco è stato riaperto al pubblico poco dopo le 23:00. La pagina del tempo, nuvolosità variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi, Gorizia 21, Udine 23 gradi e mezzo, Pordenone 25, Tolmezzo 18 gradi, Forni di Sopra 15 e mezzo, Tarvise 19, Sappada 15, Piancavallo 14 gradi, sul Lussari 10 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 12, a Grado 22 gradi, a Lignano 21 e mezzo, temperatura del mare nelle due località di 25 gradi. Vediamo le previsioni. Nelle prossime ore avremo nuvolosità variabile con maggiori schiarite. Saranno possibili piogge sparse o rovesci su tutte le zone della regione a carattere intermittente. Nel pomeriggio possibili anche locali temporali. Per domani cielo variabile sulla zona montana, in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa. Dal pomeriggio saranno possibili dei rovesci o qualche locale temporale sulla zona montana. Qualche rovescio temporale potrebbe interessare anche le zone di pianura, specie la fascia pedemontana. Venti di brezza. Un'ora di musica in meno nelle serate estive a Trieste, la proposta della giunta comunale per ridurre i disagi dei residenti nelle zone a maggior presenza di vita notturna e di locali. E più pesanti le sanzioni. Sentiamo cosa ne pensano i commercianti direttamente dalla voce di Daniele Lettig, che è andato a parlare con qualcuno di loro mentre sostanzialmente apriva le saracinesche dopo la serata di ieri. Daniele, allora che cosa dicono? Cambierà ben poco rispetto alla situazione attuale. È questo il giudizio degli esercenti dei bar delle zone della Movida di Trieste sul nuovo regolamento sulla vita notturna, che una volta approvato dal Consiglio Comunale nei weekend limiterà a mezzanotte la musica, oltre a inasprire le sanzioni per eventuali violazioni, arrivando fino alla sospensione dell'attività in caso di violazioni reiterate, appunto. Secondo i gestori, le regole attuali sono già adeguate, soprattutto dal momento che per i clienti, anche quelli che arrivano da fuori città, la possibilità di fare musica in un locale è una fonte d'attrazione in più. Un ulteriore inasprimento rischia quindi di avere qualche ripercussione sul giro d'affari, ma il vero tema, e su questo gli esercenti sono concordi, è quello di offrire ai giovani la possibilità di svago serale che oggi in città mancano, in particolare locali da ballo spaziosi e accessibili, di cui la musica nei locali è solo un surrogato. Ci sarebbero diversi spazi, dal Molo 4 alle zone del Porto Vecchio verso Barcola, oggi in via di riqualificazione, dove poter allestire dei locali adatti ai giovani, come erano presenti in città fino a pochi anni fa, questo dicono ancora i gestori, in modo da contemperare il diritto allo svago in sicurezza e quello alla tranquillità degli abitanti delle zone dove sono i presenti, dove oggi si fa movida. Questo è in poche parole appunto il punto di vista dei gestori. Grazie Daniele Lettigi. Allora andiamo avanti con Livia. E spostiamoci a Pordenone, dove continua ad accendere il dibattito la riqualificazione dell'ex fiera. Oggi il sindaco Alessandro Ciriani ha spiegato le sue ragioni. Ad accoglierlo diversi manifestanti contrari al progetto e al taglio degli alberi. Fuori in 250-300 cittadine e cittadini che chiedono di salvare gli alberi dell'ex fiera. Dentro il Palazzo Comunale, sindaco, Ciriani, assessori e progettisti collegati anche in una seguitissima diretta Facebook per spiegare ai pordenonesi il progetto di restyling dell'area destinata ad associazioni sportive e aggregazione giovanile che tante polemiche sta sollevando in città. Quello che chiediamo è che questo progetto venga fermato, anche perché non è stato approvato per nulla dai cittadini. È stato presentato cose già fatte. I cittadini invece quello che chiedono è che il patrimonio arboreo sia tutelato. Sono alberi che hanno 50-60 anni, che mai potranno essere sostituiti dei ramoscelli o dei piccoli alberi. I cittadini chiedono che questo angolo di paradiso venga tutelato. Sulle critiche il primo cittadino risponde punto su punto, il sindaco Ciriani. È doloroso tagliare 50-60 alberi, ma faranno spazio a una struttura modernissima, accogliente, bella, immersa nel verde a favore dei nostri giovani. Non è vero che caleranno i parcheggi, perché aumenteranno, non è vero che avremo spazio alla scuola elementare, che avrà più spazi a disposizione, non è vero che aumenterà il traffico, perché in realtà ci saranno più ragazzi che avranno luoghi a loro disposizione, non è vero che ci saranno solamente spazi sui tetti, come detto qualcuno, ma sarà invece un mix tra luoghi chiusi, coperti e scoperti. Nessun passo indietro sul taglio degli alberi, anche se non ne saranno abbattuti 68, ma 53. Altrettanti e di pari dimensione saranno ripiantati, assicura l'assessore all'ambiente Cairoli, grazie a un progetto del verde da 500.000 euro che interesserà l'intera area, compresa la scuola Collodi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine riuniti gli infettivologi per un convegno in cui si è discusso anche di resistenza agli antimicrobici, un problema crescente dovuto all'abuso di antibiotici che si è fatto soprattutto nel passato. Le malattie infettive nei pazienti critici sono aggravate da alti tassi di mortalità in tutto il mondo. In questo contesto la resistenza agli antibiotici rappresenta una significativa minaccia globale di ampie proporzioni. Si stima che le infezioni resistenti ai farmaci contribuiscano a quasi 5 milioni di morti ogni anno e questa stima potrebbe crescere fino al terribile numero di 10 milioni di morti all'anno entro il 2050. Con le malattie infettive che diventeranno la più grave causa di morte del pianeta. La pandemia di SARS-CoV-2 ha ulteriormente amplificato gli effetti minacciosi della resistenza agli antibiotici a causa dell'esposizione antimicrobica subottimale e del temporaneo indebolimento o interruzione dei programmi di gestione antimicrobica. Di questo e di altro si è parlato nella sede dei Rizzi nel corso del congresso IDIPAC 4 realizzato dalla clinica di malattie infettive dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine. Carlo Tascini, direttore clinica malattie infettive, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Fortunatamente il Covid come virus è più attenuato e quindi dà meno forme gravi e anche la vaccinazione e l'immunità naturale hanno determinato la protezione della popolazione, quindi noi fortunatamente non vediamo più casi gravi di Covid, se non nei pazienti veramente fragili. Stiamo andando verso vaccini sempre più sicuri ed efficaci. Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? La storia recente ci ha fatto vedere che possono esistere delle pandemie, però ecco, noi questi due giorni stiamo discutendo di batteri e funghi multiresistenti che ci sono ormai da decenni e che l'abuso degli antibiotici ha portato alla loro selezione, specialmente in ospedale. Bisogna ricordare che è importante anche il controllo delle infezioni in ospedale. Questa regione fortunatamente ha messo in atto da anni dei programmi di screening e di controllo, per cui la nostra situazione è una situazione abbastanza favorevole. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Riapre al pubblico dopo oltre 2 anni il castello di Gorizia. Alle 13.30 le porte saranno aperte per accogliere i visitatori che potranno accedere con ingresso libero fino alle 20. Nel pomeriggio si susseguiranno gli appuntamenti con Emanuela Uccello, curatrice del castello e storica, che all'inizio di ogni ora dalle 14 alle 17 racconterà la storia del maniero. Previsti anche gli spettacoli medievali delle associazioni di rievocazione storica cittadine che tra vestiti e costumi daranno prova di combattimento. L'accesso al castello sarà gratuito fino a domenica 9 luglio, compresa poi fino a fine mese. Il biglietto costerà 3 euro. Tra le novità più attese, le dotazioni multimediali che consentono di fare un tuffo nel passato grazie a ologrammi e realtà virtuale. Una notizia di viabilità: chiuso sulla A23 il tratto tra Pontebba e il confine di Stato stanotte dalle 23 alle 6 di domani mattina. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia, costretta a questa decisione per consentire lavori di manutenzione della galleria artificiale Pontebba. Chiusura anche in A4 in vista dell'apertura di nuovi 5 km di terza corsia tra Visopoli e Portogruaro. Dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina, autostrada non transitabile tra Latisana e Portogruaro in entrambe le direzioni. Attesi oltre 25.000 spettatori al concerto di Ultimo allo stadio Tegil di Lignano. Il cantautore romano 27enne porterà sul palco i suoi più grandi successi e per la prima volta dal vivo quelli tratti dal suo ultimo disco Alba. Una carriera musicale breve, quella di Ultimo, pseudonimo di Niccolò Morricone, ma già scandita da 59 dischi di platino, 20 dischi d'oro, più 2 milioni di CD venduti e oltre 1 miliardo di ascolti su Spotify. 4 anni fa il cantautore si era già esibito a Lignano nella sua prima volta in uno stadio. Apertura dei cancelli alle 16.30 e alle 21 l'inizio del concerto. Sono adesso conosciuti i finalisti della 20ª edizione del Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta. Abbiamo chiesto quali siano stati i temi trattati nei lavori di quest'anno. La presidente della giuria, Maria Concetta Mattei. Siamo riusciti non soltanto a valorizzare e portare nella terzina tanti lavori che effettivamente riguardano la guerra in Ucraina, il conflitto che continua a negare i diritti ai minori, che sappiamo vengono anche rapiti, minori che muoiono, minori che sono feriti, minori che non riescono a studiare, ma anche altre aree molto calde nel pianeta di cui non dobbiamo dimenticarci. Faccio due esempi: Siria e Afghanistan, da dove si fugge, se si può, dove si muore di fame, dove anche qui i diritti dei minori sono messi ad altissimo rischio. Ma abbiamo messo il focus anche sui nostri adolescenti, sui ragazzi che sono detenuti perché hanno sbagliato, avendo dei riferimenti spesso non eticamente all'altezza, padri a loro volta in carcere oppure cattive compagnie, ma anche ragazzi che durante la pandemia e ancora oggi continuano a affidare la propria vita negandosi la socialità. Non solo parliamo della privazione della libertà personale, ma anche della capacità di relazione, perché il livello altissimo e invasivo delle tecnologie spesso limita la capacità dei nostri adolescenti e dei nostri ragazzi di mettersi in relazione con gli altri. A San Daniele si è aperta ieri Aria di Festa, la rassegna che celebra il famoso prosciutto della città friulana, conosciuto in tutto il mondo. Le esportazioni continuano a trainare le vendite. Con il taglio della prima fetta di prosciutto di San Daniele da parte delle autorità sul palco, si è aperta ufficialmente la 37esima edizione di Aria di Festa, kermesse enogastronomica ritornata ai fasti pre-Covid e nata nel 1985, poco più di 10 anni dopo la tutela europea della DOP, denominazione di origine protetta. Per Sua Maestà e San Daniele iniziano le spedizioni verso gli Stati Uniti, ancora oggi uno dei mercati di riferimento assieme a Francia e Germania, di quel circa 20% destinato all'estero. 1.200.000 pezzi venduti nei primi 5 mesi dell'anno, più 3% rispetto al 2022. Una festa che arriva dunque in un buon momento di salute per il consorzio, che riunisce 31 stabilimenti produttivi. E dopo gli anni della pandemia, in cui era la grande distribuzione a trainare le vendite, ecco la ripresa di nuove quote di mercato da parte del settore turistico, hotel, bar e ristoranti. L'inflazione erode il potere di acquisto, ma questo prodotto d'alta gamma i consumatori sembrano non voler rinunciare. Per nostra fortuna il San Daniele sta tirando e sta aumentando i fatturati, le vendite, perciò siamo in un buon momento per noi. Negli anni si sta vedendo che soprattutto i ragazzi giovani stanno andando alla ricerca della qualità e perciò cercano dei prodotti di nicchia di un certo livello e noi facciamo parte di questa nicchia. È piuttosto stabile la scelta. Si mangia sempre le stesse cose, sempre buone. Veniamo da Trieste. E siamo molto contenti di essere venuti qua perché veramente il prosciutto è eccezionale. San Daniele del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'attore friulano Giuseppe Battistone è il protagonista di uno dei 4 episodi dei Peggiori Giorni, film presentato al Festival di Taormina che sarà nelle sale a partire da metà agosto. Dalla redazione siciliana, il servizio di Lucia Basso, con la voce proprio di Battistone, ci racconta di cosa si tratta. Lucia! Voglio i miei 35.759 euro. La mia liquidazione che non mi hanno pagato. Il 1° maggio, festa dei lavoratori, Antonio, licenziato senza giusta causa, è disposto a tutto pur di prendere la mancata liquidazione. Prende in ostaggio Stefano, il suo ex datore di lavoro, che oppresso dai debiti ha deciso di togliersi la vita. Giuseppe Battistone, attore, nato ad Udine, è il protagonista con Fabrizio Bentivoglio di uno dei 4 episodi de I Peggiori Giorni, film corale diretto da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che racconta le varie sfaccettature dell'animo umano, presentato al Taormina Film Fest. 1° maggio è una giornata particolarissima, è una festa molto importante, molto seria, viene celebrato il lavoro, i lavoratori come proprio valore fondante dell'etica delle persone, e 2 personaggi colgono l'occasione per fare qualcosa di straordinario, diciamo. Qualcuno decide di farla finita in un modo e qualcuno decide di farla finita in un altro. E allora il suicidio a Saria una resa al capitalismo. Guarda, forse te compro gratis. C'è una richiesta economica di giustizia e c'è tanta disperazione in tutti e due i personaggi. Il film sarà al cinema dal 14 agosto. È stata inaugurata stamattina la nuova zip line dell'area Fan Park dell'Angelo a Tarvisio, che va ad aggiungersi all'impianto con corda e carrucola di Sauris, il più lungo sopra un lago in Europa, che ogni anno attrae tanti amanti dell'avventura. Siamo allo sport, una notizia arrivata poco fa, si tratta di un nuovo acquisto dell'Udinese Calcio, di cui vi diamo conto. Si tratta di un centrocampista, Domingo Schina, è appunto il nuovo giocatore dell'Udinese, un portoghese che arriva dal Watford, ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per 2 ulteriori stagioni. Schina è un centrocampista dotato di grande tecnica e dinamismo, in grado di interpretare più ruoli. Classe 1999, è nato in Guinea Bissau, ma ancora bambino, si è trasferito in Portogallo ed è dunque un giocatore a tutti gli effetti comunitario. È in Inghilterra dal 2016, questa dunque la presentazione del nuovo acquisto dell'Udinese. Andiamo avanti con lo sport, ore col fiato sospeso ieri per i tifosi della Triestina. La bomba era esplosa nel pomeriggio con un articolo sul sito del Corriere della Sera che riferiva indiscrezioni sul respingimento dell'iscrizione in Serie C da parte della Covisoc, la commissione che vigila sulla regolarità contabile delle società calcistiche. Pur mancando ancora ufficialmente un comunicato atteso in serata dopo la riunione di ieri, si può dire con ragionevole certezza che l'articolo era infondato. La Triestina ha smentito sui propri canali comunicativi. E allo stesso tempo è iniziato a girare un'immagine della PEC inviata dalla Covisoc in cui si dava il nulla osta all'iscrizione. Dunque la Triestina ci sarà nella prossima Serie C, anche se rimangono molte incognite a partire dalla proprietà. Trattative sono in corso proprio in questi giorni per il passaggio a un gruppo americano. La terza serie, lo ricordiamo, sarà orfana del Pordenone, che ha rinunciato ripartendo dai dilettanti nel tentativo di evitare il fallimento. Passiamo ora al tennis. È iniziata alle 10.30 la finale del torneo ITF di tennis di Tarvisio. La promessa croata Petra Marcinko, testa di serie del tabellone numero 195 al mondo, appena 17enne, sfida la polacca Katarzyna Kawa, 276esima nella classifica WTA. Il risultato è ancora in bilico in questo momento, dunque una partita relativamente lunga. Dopo 2 ore e 10 minuti di gioco è avanti Petra Marcinko al terzo set in vantaggio per 5-2. I precedenti 2 set si erano chiusi in prima con il vantaggio di Marcinko e poi con l'1-1 di Kawa nel secondo set. Ricordiamo che ieri è già stato giocato e vinto il doppio da Veronica Eriavez e Dominika Salkova. Oggi e domani a Lignano si tiene la 30ª edizione della tappa europea di beach rugby. Ne parliamo con Giancarlo Stocco, uno degli ideatori della manifestazione. Tutti quei rugbisti che durante l'inverno hanno sofferto la pioggia e il fango si divertono, perché non sono mai domi, a fare il rugby sulla spiaggia, ovviamente per dare un senso di divertimento a quel pubblico neofita, perché siamo noi che andiamo in mezzo alla gente che segue altri sport. Viene epurato dalle mischie, dai calci, dai raggruppamenti. C'è una regola dei 2 secondi che uno tenuto dall'avversario deve subito passare la palla in maniera tale che il ritmo è veloce, lo spettacolo è di alto livello e in una partita di 10 minuti, 2 tempi da 5 minuti, si vanno dalle 5, 7 alle 15 mete. E quali sono le novità della tappa di quest'anno? Quest'anno abbiamo l'onore che la squadra iraniana maschile, che già da 6 anni viene a Lignano, porterà anche la squadra nazionale femminile come club, perché ufficialmente non possono giocare come nazionale. È un'apertura del rugby iraniano verso l'Occidente. Quindi noi siamo onorati di essere il primo torneo internazionale in Europa, ma in tutto il mondo, ad ospitare una squadra femminile iraniana, oltre poi alle nazionali dell'Austria, alle campioni di sede Europa della Francia e ai campioni d'Europa, nonché campioni d'Italia, i Crazy Crab di Frascati. Ora il baseball, sconfitta all'ottavo inning per i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari ad opera del Nettuno nella quinta giornata della Pool Scudetto. I laziali hanno vinto per 2-1 nel pomeriggio gara 2 alle 15.30, in serata alle 20 gara 3, sempre al Gaspardis. E domani in onda, dopo il GR domenicale delle 8.30, una nuova puntata di Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura lo sbarco, prossimo venturo delle nanotecnologie in agricoltura. A seguire le disposizioni del decreto regionale di lotta obbligatoria alle flavescenze dorate per il settore biologico. Nella rubrica del vino, il controllo della fermentazione alcolica nella macerazione del pigiato. Avremo poi, per la rubrica dei forestali, prima puntata sulla presenza del lupo nei boschi regionali. A seguire i lavori in orto nel mese di luglio, ricco di prodotti e soddisfazioni, e per la rubrica della gastronomia una versione al forno con olive e pomodori dei calamari. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E domani alle 6.05 sulle frequenze di Rai Radio 1, l'ultima puntata della stagione 2022-23 di Est Ovest Radio. In sommario, tra l'altro, un'analisi del pronunciamento militare in Russia, la situazione in Serbia dove si sosseguono le manifestazioni contro la violenza, un servizio sulla legge che in Estonia permette i matrimoni anche alle coppie dello stesso sesso. Est Ovest Radio, domani alle 6.05 su Rai Radio 1. 12.56 minuti e 38 secondi, concludiamo questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Livia Liberatore e Antonio Di Bartolomeo, parte tecnica garantita da Walter Vidonis e Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro sito rai.it/tgrfvg. Vi ringraziamo per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione, che di sabato è alle 14.30. Buona giornata e buon sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.